Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, e ricordando che anche oggi in questo programma ci occuperemo, daremo voce alle mail, alle centinaia di mail che stanno arrivando all'indirizzo disperatimai@radio24.it. Vi annuncio già che venerdì, poi assieme a Oscar Giannino, ma assieme a tutto il palinsesto quasi di Radio 24, dedicheremo una giornata speciale ad ascoltare, a dare voce alle migliaia di persone che ci hanno scritto in questi giorni. È ovvio che non potremo dare voce a tutti, ma come sempre, come stiamo facendo, cercheremo di leggere le mail che a nostro avviso sono più emblematiche, più significative di quelle che stanno arrivando. Nel sito di Radio 24 già da adesso è presente una parte nella parte di Disperati Mai che invece riguarda le centinaia di offerte di aiuto che sono arrivate da parte di onlus privati, psicologi, consulenti del lavoro, e ci è sembrato giusto comunque caricarle sul sito della radio, e quindi basta andare sul sito di Radio 24 per trovarle, perché è un aiuto, è una solidarietà volontaria, una solidarietà spontanea, in attesa che le istituzioni tutte, non in maniera sporadica, per carità, abbiamo apprezzato la Regione Veneto che ha messo a disposizione 6 milioni di euro, scusatemi, per le imprese in difficoltà, per gli imprenditori in difficoltà, però manca ancora una risposta di sistema, manca una risposta nazionale e poi anche di carattere regionale. Penso a un numero verde per l'ascolto nazionale, penso anche alla capacità di trovare un accordo, il Ministro Passera ci sta lavorando, con le banche per quello che riguarda i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Comunque, anche oggi parleremo di Disperati Mai, perché abbiamo lanciato un'iniziativa importante, forse più grande delle nostre forze in alcuni casi, ma siamo contenti perché, da giudicare dal tono e dal numero di mail che arrivano, c'era una voglia disperata, questa sì, di almeno avere voce. Noi non possiamo dare consigli, non possiamo nemmeno trovare soluzioni. Per quello che riguarda invece il resto della giornata economico-finanziaria, segnalo un recupero parziale ma interessante della borsa: più 2,15% a Milano, più 2,20% a Parigi, più 0,90% a Francoforte e più 0,60% a Londra, con un euro a quota 1,32. Tra i titoli, anche qui molto bene, Salvatore Ferragamo più 6% e Fiat più 4,70 come Terna, Popolare Emilia Romagna più 4,50, Pirelli più 4,30, Telecom più 4,20, Prismian pure, Mediolanum più 3,80, Intesa anch'essa più 3,80, il 3,60 lo guadagna l'automatica, il 3,5 Snam Rete Gas come in pregilo, il 3,15 Unicredit, il 2,70 Tenaris e il 2,60 lo guadagna anche Buzzi Unicem, il 2,5 Xor e il Banco Popolare. Chiudiamo con chi guadagna più del 2%, ossia il Monte dei Paschi più 2,30, Finmeccanica più 2% come Ubibanca. Chi perde anche oggi? Autogrill meno 2,70, Ansaldo meno 0,80, Mediobanca meno 0,70, Diasori meno 0,60%. Ci occuperemo anche dei temi europei, perché insomma quello che è successo in Olanda, la crisi di governo, perfino gli olandesi hanno difficoltà a stare dentro al patto di stabilità, di taglio del deficit fortemente voluto dalla Germania. E attenzione, perché l'Olanda fino a qualche mese fa era il miglior alleato della Germania, si riteneva virtuosa quanto i tedeschi, e ora si ritrova nel bel mezzo di una crisi di governo dovuta proprio ai tagli che uno dei partiti della maggioranza non vuole, il Partito della Libertà, non vuole accettare. Vuole difendere i pensionati olandesi e i lavoratori dipendenti olandesi. Le voci, e non lo dice sottoscritto, ma sono voci soprattutto anglosassoni, contro il modello solo tedesco per uscire da questa crisi stanno diventando quasi cacofoniche, arrivano dappertutto, dal Fondo Monetario a Washington, in cui i dubbi del Fondo Monetario, degli americani, degli stessi inglesi, che la ricetta tedesca possa bastare, non che sia sbagliato ridurre i conti pubblici e quindi la spesa pubblica e ridurre anche o aumentare l'età pensionabile, tutto giusto, ma non basta solo questo, continuiamo a dirlo da mesi. E voglio dire, se la Germania non avrà un ripensamento, forse avrà un ripensamento la Francia, vedremo come andranno le elezioni. La cosa incredibile è che anche molti esponenti in Italia del centrodestra ritengono che sarebbe meglio per l'Europa che vincesse Hollande, perché Hollande avrà una posizione molto più critica e dialettica nei confronti della Germania, molto meno seduta e schiacciata come ha avuto invece Sarkozy nei confronti della Germania. A mio avviso, mi dispiace se alcuni di voi non condividono la cosa, ma insomma è bello anche, la vita è bella anche per questo. Il problema dell'Europa in questo momento, una volta che i paesi hanno accettato sacrifici durissimi, penso alla Grecia, ma anche al Portogallo, all'Italia stessa, la Francia dovrà farli, ha un deficit che è ben più alto di quello italiano, la Spagna non parliamone, ha fatto la manovra finanziaria più grande da quando esiste la democrazia in Spagna, cioè da dopo il franchismo. Dicevo, il problema in questo momento, se va avanti così, si chiama Germania, cioè finché la Germania non capirà che i sacrifici si sono messi in cantiere, ma non si può strangolare l'Europa e gli europei per rispettare il rigore tedesco di una Germania che ormai viaggia per i fatti suoi. Bellissimo oggi il pezzo sul Corriere della Sera di Danilo Taino, l'altro paese dei BRIC ormai è la Germania, ebbene prima o poi forse glielo faranno capire gli altri. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro stabile e anche il petrolio leggermente rialzo, $103 al barile, oro stabile $1,636 l'oncia. Perché vanno bene le borse? Perché oggi le aste europee sono state aste, mi riferisco alle aste sui titoli di Stato, cioè quando vengono offerti a investitori istituzionali pezzi di debito pubblico. Questo è un titolo di Stato, molti di voi ce lo chiedono. Un bot altro non è che la ricerca di un finanziatore per il tuo debito pubblico. E allora la Spagna ha venduto bonus per essere precisi a 3 e a 6 mesi per 2 miliardi di euro con un rialzo sui tassi, però è molto forte. Il rendimento medio del bot spagnolo a 3 mesi è salito dallo 0,38% allo 0,63%. E quello a 6 mesi è andato dallo 0,80% di rendimento all'1,60%, il doppio. Ora lo spiego ancora una volta: più alto è il rendimento che lo Stato deve pagare per trovare dei finanziatori sul suo debito, più innanzitutto lo Stato peggiora i suoi conti, perché ti tocca offrire un rendimento più alto, e poi più lo Stato è considerato a rischio. Funziona un po' come funziona per un privato cittadino: se tu chiedi un prestito in banca, se sei ritenuto molto affidabile te lo danno a un basso tasso di interesse. Se non sei ritenuto affidabile, te lo danno o poco affidabile, te lo danno un altissimo tasso di interesse. Se poi sei un piccolo imprenditore e lavori in Italia, non te lo danno proprio, ma questo è un altro paio di maniche. Vedo che chi vive, scrive un ascoltatore, chi vive al di sopra delle sue possibilità prima o poi fallisce. Evviva il rigore tedesco. Boh. Lei ha chiaro quello che ha scritto, immagino, no? Nel senso, lei ha detto che evviva il rigore tedesco anche se deve fallire poi l'euro, lo Stato italiano, la Spagna. Cioè, ha ben chiare le conseguenze del suo ragionamento. Mi auguro di sì. Poi ci dica dove abita, perché di fronte a moti di piazza magari uno chiede rifugio a lei. Ma voglio dire, evviva il rigore tedesco. Io faccio presente a chi scrive che la Germania nel 2005 fu il primo paese a rompere le regole di Maastricht avendo un deficit più alto del 3%. Allora il ministro Tremonti e il presidente del Consiglio Berlusconi fecero un regalo alla Germania, poi arrivò anche la Francia, decidendo di sospendere le misure sanzionatorie. Ma il primo paese a non rispettare a quel tempo il tetto sul deficit fu la Germania. Nessuno però disse: ah, adesso batoste tedeschi, no? Comunque, andiamo avanti con le aste. Oggi offerti anche titoli di Stato olandesi, 2 miliardi, bene i tassi però, allo 0,52%, in calo rispetto all'asta del 13 marzo. Offerti sul mercato anche titoli di Stato italiani, ossia 2 miliardi e mezzo di CTZ, tutti venduti, il tasso però è salito al 3,35% contro il 2,35% del collocamento di marzo. In rialzo il rendimento anche sui nostri BTP, cioè ci sta costando di più rispetto a marzo trovare compratori per il debito, e questo è l'aumento dello spread. Questo vuol dire poi lo spread, c'è costato infatti oggi per trovare compratori per 943 milioni di euro di nostri BTP, dicevo, abbiamo dovuto offrire il 4,32% sulla scadenza 2019 e il 3,88% per la scadenza 2017. Lo spread italiano, quindi la differenza tra quanto costa a noi trovare finanziatori e quanto non costa invece la Germania, resta molto alto, sotto quota 400-396, ma è un livello che non si può sostenere nel medio termine. E poi il dato sulle retribuzioni, ahimè, a marzo viene confermato il dato di febbraio, ossia la differenza tra quanto sono cresciuti i prezzi, inflazione, e quanto sono cresciuti i salari, retribuzioni, è stata ai massimi da quando esiste la storia storica, dal 1983. Dal 1983 che i salari non crescevano così poco rispetto ai prezzi, rispetto all'inflazione. Più 1,2% infatti le retribuzioni a marzo e più 3,3% l'inflazione, 2 punti percentuali di differenza. E poi ci sono 4.300.000 dipendenti in attesa di rinnovo contrattuale, ossia stiamo parlando del 32%, di cui sono 36 rinnovi contrattuali, di cui 16 nella pubblica amministrazione. Di questi 4.300.000 dipendenti, 3 milioni lavorano nel pubblico impiego. E il commento sui dati diffusi oggi dall'Istat è arrivato anche dai leader sindacali. Oggi a margine del convegno di Confindustria e INAIL sulla sicurezza sul lavoro, ha detto Susanna Camusso: l'Istat conferma il calo del reddito dei lavoratori. Sul potere d'acquisto dei lavoratori pesa l'aumento della tassazione, del cosiddetto fiscal drag, che ovviamente in questi anni ha man mano accumulato ulteriore effetto di tassazione sulle retribuzioni. Tre anni persi dal governo precedente, si somma una scelta di continuare a fare manovre recessive, e queste avvitano sistematicamente la politica sul fatto che se scegli semplicemente di deprimere l'economia e di non investire sul lavoro e sulla crescita, questo richiederà ulteriori interventi, ma infatti il tema continua a essere quello di cambiare la politica europea. Ancora su questo il numero uno della CIS, Raffaele Bonanni, sempre a margine del convegno di Confindustria. Bisogna fare un'operazione sulle tasse, al contrario, cioè restituire al lavoratore e pensionati un po' di soldi, altrimenti i consumi non vanno e la recessione sarà ancora più forte. Allora noi, tra debito così alto che è intoccato, anzi perfino aumentato, e recessione incombente spinta appunto maggiormente anche dalle tasse alte, significa che il paese è out, è fuori. E poi Emma Marcegaglia, che ha detto: se non facciamo modifiche al disegno di legge di riforma del mercato del lavoro rischiamo la distruzione di posti di lavoro, occorre chiudere la riforma bene e il prima possibile. Un'ultima notizia prima di passare alle notizie strane da questa crisi. Il calzaturificio del Gatto di Porto Sant'Elpidio ha acquisito, secondo quanto si apprende, Arena Ways. La ricorderete forse, era la prima, il primo caso di concorrenza di un privato alle Ferrovie dello Stato sulla tratta Milano-Torino, fallita. Il Tribunale di Torino infatti ha accettato l'offerta di 5 milioni di euro presentata dalla società marchigiana ed è superiore a quella della Valdostana Cape che offriva 4 milioni e mezzo. Giuseppe Arena, fondatore della società, dovrebbe mantenere la carica di amministratore delegato. E adesso, prima di arrivare ad alcuni dei racconti che ci avete mandato, dunque, vedo che qualcuno si sta divertendo, per carità, va bene anche così, ma insomma, c'è chi scrive viva il rigore tedesco, vabbè, se le piace così. E poi chi dice, ma si vada a rivedere quello che dicevo, non trovo più il messaggio, si vada a rivedere quello che dicevo 2 mesi fa. Immagino forse la critica. Allora, lo ripeto, spero per l'ultima volta. Abbiamo sempre difeso le prime misure, decreto Salva Italia in primo luogo, prese dal governo Monti. La situazione era drammatica, lo spread era 540 e passa. Ok, e non si sapeva dove saremmo arrivati. Il baratro greco era lì. Una volta che tu hai fatto le misure per tagliare i conti, per tagliare una mazza, per aumentare l'età pensionabile, aumentare le tasse, cioè aumentare il gettito fiscale e rimettere in carreggiata i conti pubblici, e hai obiettivamente ricevuto il plauso di tutta la comunità finanziaria internazionale, adesso quello che serve è la fase 2, che significa riduzione della spesa pubblica, perché non si possono continuare a aumentare le tasse, o meglio, se le aumenti devono servire a ridurre il deficit, non a pagare le consulenze e gli acquisti di beni e servizi. E quindi ridurre la spesa pubblica, ministro Giada, faccia presto con questa spending review, con la revisione della spesa, e poi trovare il modo per, in chi le tasse le paga, quindi dipendenti ma anche imprese, ridurre quella che è la pressione fiscale per liberare un po' di consumi. Dire che Monti ha fatto bene nella fase 1 e che adesso invece così latita di più nella fase 2 non vuol dire né contraddirsi né smentirsi, vuol dire solo ragionare in maniera articolata e non per bianco o nero. Sentiamo invece come morde o non morde la crisi per altre persone. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Dicevo, morde, ma mica tanto. Per esempio, in Lombardia, il Consiglio regionale, allora, al di là dei 9 avvisi di garanzia che sono arrivati ai consiglieri regionali, lasciamo stare questo capitolo, al di là delle polemiche sul rapporto tra Formigoni e Daccò e Simone, insomma, più un livello di opportunità che di inchiesta della magistratura, ma sentite un po' questa. Il Consiglio regionale della Lombardia farà il ponte di 20 giorni, io non ci credevo, siamo andati a controllare, sì, perché l'ultima riunione è stata il 17 aprile, il giorno in cui si è dimesso Davide Boni da presidente dell'Aula. La prossima riunione è l'8 maggio. Allora, 3 settimane di semiferie, perché forse almeno le commissioni consiliari e non tutte dovrebbero riunirsi. La giustificazione del Consiglio regionale della Regione Lombardia. Il calendario, il Consiglio si riunisce di norma il martedì, e il primo martedì è oggi, 24 aprile, vigilia della liberazione. E che vuol dire? Potevi lavorare il 24 aprile e andare in vacanza domani. Seconda giustificazione, il prossimo martedì è il 1 maggio e si esita così all'8 maggio. E qualcuno poi dice anche che in Lombardia si vota. Comunque, un applauso alla produttività cinese dei consiglieri della Regione Lombardia. Ma non è tutto qui, no, basta, un applauso va più che bene. Ce n'è un'altra che riguarda questa volta i manager di Finmeccanica. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Allora, Finmeccanica perde 2 miliardi, ma insomma, un gruppo che a noi è sempre piaciuto, un vero gioiello che sapeva conquistare mercati, travolto dalle indagini giudiziarie, dai sospetti di mazzette, oggi su Quelle della Sera, quelle riferite e poi smentite da Finmeccanica e dalla Lega nei confronti della Lega, debiti, perdite, insomma, l'unico punto fermo nel gruppo Finmeccanica sono gli stipendi dei capi. In un documento reso pubblico, la relazione sulle remunerazioni depositate in borsa, si legge che i compensi di amministratori e top manager dell'azienda pubblica sono cresciuti anche nel 2011, l'anno in cui il gruppo ha chiuso i conti in rosso per oltre 2 miliardi. Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica, in carica fino a dicembre, ha ricevuto 615.000 euro in aggiunta alla retribuzione fissa di 1.200.000 euro, poi la liquidazione di 10 milioni, e vabbè. Nel 2012 il direttore generale Alessandro Pansa ha guadagnato 2 milioni di euro, di cui 980.000 la voce bonus. Dottor Pansa, il bonus perché cos'è nel 2012 se avete 2 miliardi di perdite? Boh. E poi il nuovo capo azienda Giuseppe Orsi è arrivato a 1.500.000 euro con 350.000 euro di premio, tutto regolarissimo, nel senso che era tutto previsto. Il paradosso comunque è che i bonus incassati dai manager di Finmeccanica nel 2011 si riferiscono anche ai risultati del 2010, ma dopo pochi mesi il bilancio si è sgonfiato, mentre bonus e premi sono rimasti agganciati al vecchio bilancio. Cioè, avete capito bene, i bonus e i premi sono agganciati al bilancio 2010, quello in cui c'era ancora l'utile, e non al bilancio 2011, quello in cui c'è una perdita di 2 miliardi. E anche questo merita, a nostro avviso, un grande applauso. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Vivo il mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Adesso, come avete capito, iniziamo invece un Golgota che non è il nostro Golgota, è il Golgota di migliaia di persone che stanno cercando di uscire e di sopravvivere a questa crisi, trascinandosi anche una croce che non è necessariamente loro. Una nota la devo dire però. Visto che parlavamo dei consiglieri della regione Lombardia che sono in vacanza per 3 settimane per via dei ponti, per via del fatto che non si potessero riunirsi martedì, lo stipendio, volevate sapere, 12.500 euro lordi al mese. Sono un eroe. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera a lei, carissimo dottor Barisoni. Lo sa che fra un po' mi faranno fuori se avanti così, però no, con un razzo di Finmeccanica. No, sto scherzando. No, no, Finmeccanica poi non è quello che si rappresenta, è un'azienda molto seria. Molto bella anche, l'abbiamo sempre molto detto. Molto bella, e cioè i dirigenti hanno fatto miracoli in questi anni. Certo, dai. Sa che io poi preferisco spersonalizzare. Bene. Io affronto i sistemi. O i peccati, non i peccatori. Allora, resti con noi perché io devo leggerle alcune delle lettere che sono arrivate. Lo faccio dopo il metodo e la pubblicità. Lei ha scritto una cosa bellissima sul Corriere della Sera di qualche tempo fa. Adesso, eccolo qua, l'articolo dell'8 aprile. L'individuo solo nella società estranea. Perché è chiaro che noi di economia, di crisi ci occupiamo ogni giorno. Qui, a mio avviso, c'è dell'altro. E la politica, le istituzioni sembrano non volerlo capire. Comunque, meteo e pubblicità. Mi chiamo Giampiero, ho 55 anni e sono artigiano a Lucca. Produco insieme a mia moglie, ad una dipendente, borse sportive ed altri articoli similari. E fino agli anni 90 avevamo diversi dipendenti, poi è arrivata l'invasione dei prodotti fatti in Cina e dei prezzi molto inferiori ai costi nostri. Nel tempo abbiamo dovuto licenziare le persone che avevamo, con conseguenti problemi di coscienza e notti insonni, dopo aver buttato quei pochi risparmi nel tentativo di evitare tutto ciò. E allora, nel tentativo di poter continuare a lavorare, tutta la mia famiglia, ho 2 figlie, vive su questo lavoro, mi sono rivolto all'unica banca con la quale lavoro, chiedendo un prestito di 30.000 euro attraverso la Confartigianato per avere la liquidità per andare avanti. Dopo 6 mesi di sofferenze, l'artigianato ci ha concesso la garanzia del 50% solo su 20.000 euro che la banca ci ha erogato con notevoli spese, togliendoci automaticamente 15.000 euro di fidi. Pertanto adesso ci ritroviamo punto e a capo e non so ancora quanto potremmo durare, anche in funzione dei continui costi che aumentano. Vogliono farci chiudere tutti? Certamente le mie figlie non lavoreranno con me e si interromperà un percorso tramandato prima da mio nonno e poi da mio padre. Ho pensato anch'io diverse volte a farla finita e questo pensiero ogni volta mi dà una sensazione di pace e di soluzione, ma non ho mai trovato il coraggio, e spero di non trovarlo mai, anche se mi capita spesso di cercarlo. Ho 33 anni, lavoro da quando ne ho 17. Nel frattempo ho studiato architettura al Politecnico di Milano. Ho creato due aziende che mi hanno dato delle felicità. Ho cominciato a vendere immobili e sono cresciuto fino a costruire una società di intermediazione immobiliare con una sede e tre filiali tra Lombardia e Emilia-Romagna. Stavo bene e lavoravo tanto. Poi il baratro. A cavallo del 2009-2010 tutto è cambiato. La società immobiliare era immobile, non vendevamo e i costi erano alti. Ho deciso di venderla al mio socio, praticamente l'ho regalata. Speravo nella società informatica, ma nel giro di pochi mesi è crollata. Abbiamo avuto più del 90% di insoluti. Le banche ci hanno chiuso i rubinetti, ho dovuto licenziare i miei 4 dipendenti, mi sono accollato personalmente i loro crediti per non mancargli di rispetto. Alla fine ho dovuto chiudere. Ora sono un fallito, senza soldi, lavoro e stimoli. Ho quasi paura ad alzarmi alla mattina per l'angoscia di trovare sulla mia strada qualcuno che avanzi dritto su di me, e dopo 15 anni di lavoro e fatica e di onestà mi sento braccato come un delinquente. Non cerco compassione ma un sostegno per ricostruire un avvenire, e grazie al cielo, si fa per dire, non ho famiglia. Sì, ci ho pensato anch'io. Sono nato e cresciuto nel settore orafo, devastato dalla crisi dalle banche. Nel 2008, ultimo anno di attività, 1,5 milioni di fatturato, poi la chiusura, 2 bambini ed una moglie a casa senza lavoro. Si vive la mezza giornata quando si riesce. Per spazzare via il pensiero di farla finita, in un primo passaggio ho imparato a non guardarmi alle spalle, ma non è bastato, ho dovuto anche imparare a non guardare al domani, domani inteso non come futuro, ma domani in termini di giornata. È come un'autoprotezione del cervello, si rifiuta di non guardare oltre il tempo presente. Questo è devastante non solo sul piano professionale, ma anche su quello psicologico. Bisogna essere forti se non si vuol finire in uno stato depressivo. Ho dovuto anche fermare l'auto per l'impossibilità di rinnovare la polizza assicurativa. Questo è normale? Qualche giorno fa mia figlia, 5 anni, mi ha detto: «Papà, quanto sei bello, quanto ridi!» E tutte le volte che ci penso piango e rimpiango, perché mi rendo conto che anche sorridendo, forzosamente lei comprende la non genuinità del gesto. Questo è molto grave, vuol dire che mi sto perdendo la vita e la gioia che una figlia ti può trasmettere. Io riesco per ora a resistere, ma 3 miei amici e compagni di lavoro hanno già gettato la spugna, chi con una corda e chi con un colpo di pistola. Allora, professor Sapelli. Eccomi qua, pronto? Non è facile, lo dico in maniera molto onesta, non è facile nemmeno per me leggere queste email, però è una promessa che abbiamo fatto agli ascoltatori, stiamo cercando di leggere quelle più emblematiche, quelle più simboliche. E di tutto avrei voluto occuparmi in questi 10 anni, tranne che di imprenditori vicini al suicidio. Che cosa sta succedendo? Lei ha parlato di un individuo solo. La solitudine è quello che emerge, al di là delle difficoltà economiche, questo lo sapevamo, ma è proprio la solitudine quello che emerge come tratto comune, comune denominatore. Sì, però bisogna, fermiamoci un attimo. Io in quell'articolo che lei ha avuto la bontà di ricordare ai radioascoltatori, parlavo di un concetto di un grande sociologo che è rimasto insuperato, che è Emile Durkheim, che parlando del suicidio parlava di correnti suicidogene. Vede, non è tanto la solitudine, noi siamo davanti adesso a un fenomeno molto particolare e molto specifico, che in questa società si sono create delle correnti spirituali, Jung avrebbe detto di psicologia del profondo, che inducono le persone che hanno oggettivato se stesse nelle creazioni di entità destinate al successo, come sono tutte le imprese. L'imprenditore non fa l'impresa per fare soldi, questa è un'immagine volgare. L'imprenditore fa l'impresa per avere un successo, un'avventura, un'idea, per fare anche il bene degli altri, per assumere degli operai, i padri lo fanno per trasmettere ai figli. Però succede che a un certo punto lo Stato si erige contro di essi, e soprattutto nella società non ci sono, non sono più individuabili delle catene che possono aiutarti in caso di crisi e di difficoltà. È la solitudine nella folla. La società ti è estranea. Naturalmente questo si presenta in una società di massa e di mass media. Tutti parlano di questi suicidi. E allora la corrente suicidogena avviene anche, mi spiace dirlo, per una parola terribile dirlo, per effetto imitativo, è l'angoscia. Si imita l'angoscia e il suicidio appare come una forza prorompente di ultima disperata liberazione dall'angoscia di vivere per l'insuccesso. E questa è una cosa molto difficile e che secondo me, voglio dire, ha un aspetto di... c'è anche un fronte istituzionale che si presenta estraneo. E voglio dire, c'è una crudeltà delle istituzioni che è emersa in questi ultimi anni e che è molto forte, in questi ultimi mesi ha avuto la sua acme. E quindi l'uomo, queste correnti suicidogene sono fortissime e sono appena cominciate, amico mio. Voglio dire, giusto per chiarire e sgombrare il campo da ogni dubbio, lei può dirmi quello che vuole, Sapelli, ma secondo lei, parlandone, noi rischiamo di alimentare la corrente o almeno diamo uno sfogo a qualcuno, certo, che si sente meno, certo, solo? Chiedo. Certo, voi parlandone alimentate la corrente. Ma non è colpa vostra, voi da un certo qual punto di vista dovete parlarne, fate anche bene, sollevate la questione. E però se io sono, vi ascolto alla radio, sono disperato, non ho più i soldi per fare la pompa, la benzina, questa cosa l'hanno già fatti altri, vedi com'è diffusa la solitudine attorno a me, penso. Guardi che questa è una cosa terribile, questa voglio dire... Ma all'opposto non potrebbe essere anche un modo per sentirsi non solo di capire che in realtà non c'è solo il tuo caso, chiedo? All'opposto non potrebbe solo essere che non è solo il tuo caso, sì certamente, ma vedi amico mio, quando si è soli, una stanza di uomini soli non fa una stanza di uomini non soli, Essere in tanti da soli fa tante persone sole. Mm-hmm. Guardi che l'essere soli non è un fatto di quantità. Io posso stare in una cella con 20 persone e essere terribilmente solo. Posso stare invece in una cella leggendo Goethe e posso non essere solo perché appartengo al mondo. E ho con me il mondo. Ecco, ma questo senso di non appartenenza al mondo, Sapelli, perché lei batte molto su questo tasto. Allora, la crisi c'è per tutti, c'è anche per i lavoratori. Ma come si fa a appartenere a questo mondo, scusi? Me lo dica lei. No, voglio dire, appartenere a questo mondo bisogna avere una fede. Credere in Dio aiuta a resistere. Due, se non si ha una fede religiosa, avere almeno una fede politica. I partiti non ci sono più. Ci sono dei, uso questo termine al cloroformio, dei comitati, no? Perché non voglio incrementare le correnti suicidogene. E c'è l'amicizia, c'è l'amore, la grande forza sono l'amicizia, l'amore, l'associazione, ma questo è difficile, è da conquistare, mica tutti ce l'hanno. Ecco, però c'è un punto che mi sfugge, Sapelli, e magari la risposta me la dà dopo il traffico, poi ci saranno anche i mercati, perché speriamo di no, perché io No, ho le mie tesi di laurea. No, lo so, ma ancora un minuto, però traffico. Dopo il traffico ci metto un minuto. No, quello che mi sfugge è perché questa ondata, diciamo, che lei, citando Durkheim, il suicidio anomico, quando uno non si riconosce più nella società, trova la società come estranea, colpisce gli artigiani, i piccoli imprenditori. Voglio dire, non sto augurando niente a nessuno. Però no, non c'è un politico, mi faccio finire, non voglio essere frainteso, lo dico due volte, non voglio essere frainteso, ma non c'è un politico che tenti un atto estremo, non c'è un top manager che lo faccia, non sto invitando loro a farlo. Perché colpisce questi e non... Perché vede, scusi se posso permettermi, chi si sente più solo e chi quando le cose vanno, tra virgolette, bene, vive in comunità. La piccola impresa, l'artigiano, è una comunità. E quindi quando sei solo, sei terribilmente solo perché hai perso l'asse della sua vita. Anche nei partiti. Chi usciva da un partito, che un tempo con disprezzo si chiamavano i partiti chiesa, Verne partiti chiesa, si sentiva solo, disperato. Oggi i partiti, uno fonda uno e c'è un partito per farne un altro. Allora facciamo una cosa. Anche nelle grandi imprese, i top manager ormai viaggiano da un'impresa all'altra. Sono molto mercenari, no? Non è un caso che colpisce l'imprenditore e soprattutto il piccolo imprenditore, quello che è il cuore della comunità, il cuore della civiltà, è la piccola impresa. di nuovo in diretta. Allora, professor Sapelli, vorrei capire una cosa. Lei dice, insomma, si sta va nel, in crisi, lasciamo stare il gesto estremo del suicidio, ma va in crisi esistenziale, la parte che più aveva condiviso col resto della comunità, la crescita economica, se posso tradurre quello che... Che più aveva trasformato in crescita la comunità. Che aveva trasformato in crescita la comunità, ha ragione. Allora, le vorrei chiedere una cosa. Prego. Come se ne esce? Perché voglio dire, io sarà che noi abbiamo una sensibilità, perché abbiamo un pubblico molto eterogeneo, certo, se scrivessimo solo su riviste tipo l'Economist non ce ne accorgeremmo, ma con tutto rispetto per l'Economist, ma qui la situazione sta montando, cioè noi siamo rimasti, lo dico senza nessun problema, quasi spiazzati dall'iniziativa che era nata perché molti ci chiedevano dateci una voce, raccontate anche le nostre storie, ci siamo messi a raccontarle e si è aperto il vaso di Pandora. Allora, da qualche parte anche politicamente andrà presa questa cosa, o lasciamo che un pezzo di società vada alla deriva e una specie di palingenesi così, no? No, no. Barbara, mi dica. Innanzitutto ci sono molte iniziative di base. Io sono tornato da un'iniziativa, ne ho parlato oggi sul Corriere il dottor Di Vico, così attento. Sono tornato recentemente da un'iniziativa a Treviglio dove degli artigiani, degli imprenditori stretti attorno alla loro cassa rurale, alla banca di credito cooperativo, stanno lavorando per creare un istituto tecnico per ricreare la fiducia dei giovani nel lavoro, l'orgoglio del lavoro, perché i giovani non vogliono più fare gli operai, invece ce n'è tanto bisogno. Quindi voglio dire, siamo davanti a forme di organizzazione dal basso, ci sono dei gruppi di imprenditori di autoaiuto. E la Chiesa fa parecchio, dovrebbe fare di più, ma non ha i mezzi. Le associazioni imprenditoriali, so per esempio Confindustria ha fatto un telefono dove si può telefonare in casi speciali, ma bisogna ricreare uno spirito di comunità, bisogna trovare un modo per cui la gente ritrovi il gusto di riunirsi, quello che una volta facevano i partiti o gli oratori, perché si andava al partito, si andava all'oratorio, a conferenza di San Vincenzo, e alle parrocchie, eccetera. Bisogna trovare posti dove la gente... Ma lei sta parlando di tutto tranne che di un'iniziativa politica, non è che ci sia ossessionato... Ma amico mio, ma no, scusi, ma lasci perdere la politica. C'è, la politica è la polis, non sono i partiti solo. Abbia pazienza, se lei parte già dai partiti, non ne vorrà fuori niente. Bisogna capire, mi spiace dirlo agli spettatori, non vorrei creare correnti suicidogene, ma dobbiamo fare una lunga traversata nel deserto in cui la politica non avrà nessun ruolo, ci in sta cui dicendo. i partiti attuali, che sono dei comitati d'affari travestiti da fondazioni, cose di questo tipo. Noi dobbiamo ricreare dei partiti di massa che siano delle comunità di destino, partendo dall'associazione tra liberi e forti, come diceva Don Sturzo e come diceva Giacomo Matteotti. Noi abbiamo una grande tradizione, anche la tradizione comunista, non solo quella socialista e quella cattolica. Ecco, bisogna riprendere quelle tradizioni dal basso, ma non si può farle d'amblè, amico mio, e non si può neanche continuare questa geremia contro i partiti, bisogna anche un po' finirla, lasciamoli stare. Lasciamoli stare nel loro brodo, quando la gente non li voterà più scoprirà che deve creare di noi partiti, perché se continuiamo a parlare di casta, poi le vere caste non sono la classe politica, perché hanno le pezze e chi pezzi. È la vera casta, Sapelli? La casta sono i grandi top manager, sono i grandi banchieri, e quella è la casta, no? Sono coloro che dirigono le grandi istituzioni di questo paese. Queste sono le caste, ma lei pensa che la casta sia la politica? Ma per favore, ma come fa a credere che un assessore possa condizionare un grande imprenditore? Io sono d'accordo con lei, però. Ma per favore, sono d'accordissimo. Ma scusa, ma da dove vengono i soldi? Chi fa i soldi? Mica spuntano dagli scanni del Parlamento, no, i soldi? Ma come si fa a continuare questa infame campagna mediatica contro la casta politica? Ma un po' di serietà, ragazzi. Guardi, Sapelli, io sono d'accordo con lei, fermo restando che non la trovo una infame campagna, però la ringrazio, e poi ci ritroveremo venerdì in questa giornata che comunque noi dedichiamo alla crisi delle piccole imprenditori artigiani. Adesso c'è il GR, poi parliamo invece delle variabili europee, ma torniamo a leggere anche qualche lettera. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso passiamo alla borsa e poi allo scontro, a mio avviso, che si profila in Europa dopo la crisi olandese. Vedremo l'esito delle elezioni francesi e un possibile isolamento della Germania. Devo però dare una risposta a decine di sms e anche messaggi su Facebook che sono arrivati dopo l'intervento del professor Sapelli. Allora, due cose. Sapelli spesso non la pensa come sottoscritto, ma è per questo che mi piace. Ha un'intelligenza viva, poi un po' si può non essere d'accordo con quello che ha detto, ma insomma sicuramente fa riflettere. Primo aspetto, quindi a me piace avere persone che mi contraddicono e personalmente non la vedono come me, perché questo è il programma, non per altro. Secondo aspetto, il timore che parlando degli imprenditori, artigiani piccoli in difficoltà si possa creare un'emulazione. Guardate, penso di poter parlare tranquillamente anche a nome di Oscar Giannino, visto che l'iniziativa l'abbiamo lanciata io e lui. È una domanda che ci siamo posti molte volte e non ha una risposta netta come tutte le domande importanti. L'alternativa era far finta che non esistessero, continuare a far passare queste persone come dei fantasmi, a nostro avviso farle sentire ancora più soli. Abbiamo preferito dare la possibilità di dare voce. È chiaro che non possiamo leggere tutte le mail, ci mancherebbe, stiamo leggendo quelle che a nostro avviso, ripeto ancora una volta, sono più esemplificative. Il dubbio resta, noi non siamo il sottoscritto uomini di certezze apodittiche e assolute, per cui il dubbio resta. L'alternativa, ripeto, era il silenzio, era continuare a ignorarli come continuavano ad ignorarli moltissime istituzioni, moltissimi soggetti che continuano a ignorarli, che facevano finta che questa ondata di disperazione fosse solo il frutto di una depressione psichica e non anche di qualcos'altro che, e qui concludo, il professor Sapelli ha riconosciuto, cioè nell'articolo che io citavo su Corriere della Sera, riconosce la solitudine di un individuo che era cresciuto grazie all'apporto della società. A mio avviso l'importante è non raccontare balle, dire non vi preoccupate, fra un anno tutto cambierà, non vi preoccupate, i ristoranti sono pieni, la gente è sempre a cena, raccontare balle, diciamo, politiche, ma raccontare la verità, che è quello che stiamo cercando di fare da anni, e cioè che c'è un mondo che è in trasformazione per quello che riguarda in Italia, l'Italia ancora prima della crisi, e che quindi il modello produttivo italiano in parte non potrà restare quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 20 anni, e questa si chiama globalizzazione, piaccia o non piaccia. Però detto questo, come traghettiamo migliaia di famiglie, di persone da un modello all'altro? Non si può semplicemente dire arrangiati, non si può semplicemente dire beh, sai che c'è, ormai la tua attività è troppo piccola, è troppo legata ai consumi interni, esporti poco, sei poco in filiera. Allora si danno dei consigli, la filiera, l'aggregazione e quant'altro, ma nel frattempo si prende atto che qualunque processo ha bisogno di una fase di transizione, non si può abbandonare a se stessi i cittadini in primo luogo e poi anche artigiani, imprenditori che hanno contribuito e non poco alla ricchezza di questo paese. Chiuso questo commento e ripeto, i dubbi di Sapelli sono anche i dubbi miei e penso anche serenamente i dubbi di Oscar Giannino. La borsa. Il mercato che oggi recupera, recupera parzialmente, chiaramente il 2,5% Milano è la migliore, Parigi più 2,30%, Francoforte più 1%, Londra più 0,80%, l'America più 0,80%, anch'essa tra i titoli Salvatore Ferragamo e Fiat, Salvatore Ferragamo più 6,5% e Fiat più 5%, recuperano un po' di meno le banche, nel senso che la Pop Milano fa l'1,20% di rialzo, UbiBank più 2,30%, il Banco Popolare più 2,40%, Monte dei Paschi meglio con un 3,30% di rialzo, Unicredit più 3,80%, Intesa più 4%, Popolare Emilia Romagna invece recupero è più netto, più 5%. Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, Salvatore Ferragamo e Fiat e anche Prismian, se vogliamo, l'ex Pirelli Cavi che fa più 5%. Ok, allora Salvatore Ferragamo diciamo che rimbalza dopo il forte calo della vigilia beneficia sempre dei riflettori puntati sul settore del lusso. Ricordiamo anche che Cucinelli sbarcherà in borsa venerdì prossimo. Per quanto riguarda Fiat ha guadagnato oltre il 5% in attesa dei conti del trimestre che verranno approvati domani per Fiat Industrial e giovedì per Fiat S.P.A. Gli analisti il mercato ritengono positive le anticipazioni sull'andamento del trimestre, che dovrebbe chiudersi con oltre 1 milione di veicoli venduti per Fiat, e si aspettano conti positivi grazie soprattutto all'andamento dell'americana Chrysler, che dovrebbe compensare la debolezza dell'Europa. E ancora abbiamo anche Pirelli, non l'ex Pirelli Cavi, che fa il 4,65%. Sì, assolutamente. Allora, Pirelli beneficia innanzitutto dell'ottimo primo trimestre annunciato ieri dalla concorrente francese Michelin, che ha mostrato un aumento di oltre il 5% dei ricavi e ha confermato gli obiettivi per il 2012. Dall'altra parte il gruppo della Bicocca beneficia dell'annuncio oggi di una joint venture in Indonesia, dove prevede di investire 120 milioni entro il 2014. Ancora tra i titoli, dicevamo, le banche, recupero misto, diciamo, alcune in maniera più consistente, appunto come la Pop Emilia Romagna, altre più al palo come Monte dei Paschi, ma soprattutto la Pop Milano più 1,20. Sì, allora le banche oggi dobbiamo dire che hanno mostrato un andamento estremamente volatile. Sì, a metà pomeriggio hanno anche perso molto, nonostante comunque vi sia stato un allentamento della tensione sul mercato dei titoli di Stato. Notiamo oggi che appunto il differenziale BTP Bund è sceso sotto quota 400 punti base. A fine seduta, appunto, come dicevi tu, hanno recuperato la maggior parte delle banche. È rimasta negativa Mediobanca, che sul FTSE MIB ha perso lo 0,44%. Ricordiamo anche che Mediobanca risente della questione prima, fine essendo uno dei maggiori creditori della galassia di Cresti. E poi Snam oggi diffuso i conti. Nei primi tre mesi l'utile cala a 274 milioni, più 9% invece i ricavi. Il titolo? Sì, il titolo ha guadagnato il 4%, diciamo che l'utile è sceso a 274 milioni di euro, ma si tratta comunque di un risultato che ha battuto le attese del mercato, che si aspettava profitti per 264,4 milioni di euro, quindi inferiori a quelli registrati. Ancora di Fiat tu hai detto, citiamo tra i peggiori Autogrill, meno 2,50. Sì, allora bisogna dire che Autogrill sta mostrando in questi giorni un andamento estremamente volatile. Anche ieri aveva perso terreno, aveva guadagnato la scorsa settimana per le varie voci e ipotesi su uno scorporo, e oggi ricordiamo che c'è stata anche una banca d'affari che ha tagliato le stime sull'utile per azione. E poi migliori e peggiori in assoluto: Acotel Group più 12,24%, Eurotech più 9%, Salvatore Ferragamo più 6,5%, Astaldi più 6,22%, e invece sul fronte opposto CDC Point meno 13%, Sintesi meno 11,60%, Le Buone Società meno 12,30%. Grazie Livia Zancanera, Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie a voi, buonasera. :17, ultima parte di Focus Economia. Adesso, se ce la faccio, leggo ancora alcune lettere di imprenditori che ci hanno scritto, che si sono palesati, che hanno raccontato le loro difficoltà. Attenzione, non sono imprenditori sempre disperati. Però prima vorrei affrontare un tema che si lega moltissimo anche con quello che sta capitando ai piccoli artigiani, ai piccoli imprenditori di questo paese. Molti lamentano il credit crunch, la chiusura da parte delle banche di erogazione e prestiti. Anche oggi si sono levate voci critiche su quello che potrebbe essere il destino dell'Europa se, diciamo, l'agenda continua a essere un'agenda tedesca. Jean-Paul Fitoussi, un economista, nostro ospite molte volte, oggi in audizione in Commissione Bilancio della Camera italiana ha detto le elezioni francesi c'entrano poco, le borse europee ballano perché l'Europa ha accettato, se non esplicitamente, di mettersi sotto il controllo dei mercati finanziari e ha aperto spazio alla speculazione. E poi continua Fitoussi: il mio consiglio ad Hollande, il candidato che è in testa del centro-sinistra francese, è di non andare dalla Merkel per discutere della riduzione della spesa pubblica, il fiscal compact. Prima vada dagli altri paesi dell'area euro e faccia un gruppo di pressione. Se Hollande andrà subito dalla Merkel, sarà spacciato come lo è stato Jospin, che alla fine ha dovuto firmare. Se poi alla fine la Germania non accetta, che vada fuori dall'euro. E la commissione bilancio della Camera ha applaudito. Professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa, buonasera. Buonasera. Il Parlamento italiano applaude e sta montando, è inutile girarci attorno, una, non so se rabbia, ma insoddisfazione, devo dire molto bipartisan, da sinistra come da destra, nei confronti di una Europa completamente schiacciata sulla Germania. Prima di ascoltare il suo commento, voglio chiarire per l'ennesima volta: un conto è dire che la Germania fa bene a chiedere ai paesi come la Grecia, il Portogallo, la Spagna, anche l'Italia, di mettere a posto i conti, fa bene. E devo dire che meno male che ce l'ha chiesto in maniera così forte anche attraverso la BCE, perché abbiamo fatto riforme importanti con il governo Monti. Però la sensazione in questo momento è la seguente, professor De Aglio: ha senso morire per la Germania? Cioè, ha senso sprofondare in un ciclo vizioso dell'economia in cui, aumentando le tasse, riducendo la spesa pubblica, sostanzialmente l'economia non riparte, e come dicono gli americani e gli inglesi, se l'Europa continua così sarà il vaso di coccio nella ripresa mondiale? Direi che non ha assolutamente senso, non ha senso adeguarsi tutti alla logica del bottegaio tedesco, perché questo è sostanzialmente l'elettorato a cui la Merkel guarda come punto di riferimento, al quale ha paura di chiedere o di dire che un po' dei soldi tedeschi vanno a tutti gli altri. Se noi ci faremo governare dal bottegaio tedesco, avremo una recessione che assomiglierà a quella dell'ultima parte degli anni 30, cioè quando sembrava di essere fuori dalla crisi e poi ci è arrivata la mazzata nel 1937. Allora, per evitare questo, bisogna che questo tappo tedesco venga tolto. Se non viene tolto, purtroppo dovremo prendere in considerazione altre misure. In fondo, quello che si diceva, la Germania che esce dall'euro, magari anche solo temporaneamente per poi aggiustare i cambi e rientrarci dopo, potrebbe anche essere una soluzione di emergenza che nessuno vuole, ma che potremmo essere forzati ad adottare, perché ne va della nostra, diciamo pure, sopravvivenza economica in un certo senso, contro il benessere del bottegaio tedesco. Ecco, su questo a me quello che ha impressionato è vedere cosa è successo in Olanda, professor De Aglio, perché in Francia, insomma, che Olanda stia prendendo i voti anche di chi è stufo di vedere una Francia appiattita sulla Germania è chiaro, anche perché la Francia ha un deficit che è ben più alto di quello italiano, 4,7% se non ricordo male, e quindi i tagli dovrà farli anche la Francia, se deve accettare la ricetta tedesca, il fiscal compact, taglia la spesa pubblica, aumento delle tasse, aumento dell'età pensionabile. L'Olanda, insomma, l'Olanda che era la Germania 2, no? Erano agganciati i due virtuosi, bacchettava anche l'Italia e la Grecia. La Germania, il governo è crollato su questo, cioè il partito che ha levato la fiducia al governo ha detto: noi non vogliamo sacrificare i pensionati e gli operai e gli anziani olandesi. Non è un senso. Certo. Ma non dovrebbe, cioè la Merkel secondo lei nemmeno su questo poi fa una riflessione, no? No, la Merkel è diciamo così bloccata non tanto dalla perdita di voti del suo partito, che si è puntualmente verificata in tutte, credo, le elezioni, forse meno la penultima, ma soprattutto nel fatto che i suoi alleati liberali, secondo quello che danno i risultati elettorali e i sondaggi, scompariranno dal Parlamento, avevano il 13%. Quindi lei si troverà ad affrontare una grande coalizione con i suoi nemici storici, cosa che ha già fatto, che tra l'altro non ha gestito male al suo tempo, ma ha paura di essere messa sotto in questa grande coalizione se la controparte prende più voti di lei. E allora c'è questa corsa veramente in qualche modo da bassa politica alla ricerca del consenso di base, che però anche in Germania comincia a scivolare, insomma, perché accanto ai Bottegai tedeschi ci sono i pirati tedeschi, cioè questo gruppo di antipolitica che è basato sulla negazione di tutto, quindi vuole avere internet gratis, vuole avere le cose gratis, eccetera, e non gliene importa niente della correnza globale. Ora noi vedremo un'Europa in cui queste cose comunque esploderanno. Cioè, lei è convinto che esploderà questa doppia, o meglio, la Germania contro tutti se va avanti così, perché insomma, a parte i paesi scandinavi. Ma esploderà anche in Germania, perché la Germania non va benissimo, non può andare benissimo con un'Europa che non va bene. Dopotutto noi rappresentiamo il 50-60% delle loro export, delle sue esportazioni, certo. Quindi diciamo che almeno 3-4 milioni di posti di lavoro tedeschi dipendono da noi. Questo correre dietro al consenso immediato può mascherare poi cadute di fondo che al momento attuale ufficialmente non si vedono. Le imprese sembrano essere in buona salute e tutto sembra funzionare. Era così anche in Olanda. Sì, appunto, per quello che a me interessa più l'Olanda paradossalmente della Francia in questo momento, come segnale, anche perché oggi Moody's, l'agenzia di rating, ha detto che la caduta del governo pesa sulla fidabilità. Grazie Moody's per l'ennesima banalità. Devo leggere l'ultima lettera e poi le chiedo un brevissimo commento. Professore, lei, non so se lo sa, stiamo conducendo una campagna che si chiama Disperati Mai per dar voce agli imprenditori artigiani, piccoli imprenditori in difficoltà, e ci stiamo venendo invasi da migliaia di mail. Devo dire, il silenzio della politica, ma anche della politica locale, regionale, è totale. Salve, mio nome è Giovanni. Non è facile ritrovarsi con niente tra le mani e con debiti da pagare a quasi 62 anni. Ho iniziato a 12 anni senza assicurazione. 50 anni di vero duro lavoro sulle spalle. Mi viene proprio da piangere, anzi sto piangendo al pensiero della disperazione provata da coloro che dopo una vita di lavoro sono arrivati al gesto ultimo della vita. Riesco a capire la disperazione assoluta vissuta nella solitudine e nella vergogna per non avercela fatta, per non sopportare il peso della distruzione dei sacrifici e le lotte fatte per migliorarsi negli anni. La prima cosa è la depressione che corrode dentro ogni pensiero e che si insinua come un tarlo tra i neuroni del cervello, facendo vedere tutto intorno un mondo ostile e nemico. Dopo arriva l'abbandono totale al caos degli eventi che ti crollano addosso e il peso di tutto ciò che accade ti abbatte oltre che mentalmente. Fisicamente ti piega fino a farti raggomitolare su te stesso e senti i muscoli, i tendini e ogni cellula restringersi su se stessa. Ti senti come un burattino guidato da fili invisibili che si divertono a sbalzarti da un punto all'altro e tu non puoi reagire. Ti nascondi dove puoi, non vuoi farti vedere dai tuoi cari, dagli amici, vicini, la gente, e abbozzi sempre un sorriso per non far capire. La prima batosta, continua, l'ho avuta prima dall'euro, sono caduto e mi sono rialzato, ma non è bastato. Ora con la nuova crisi sono caduto di nuovo e anche questa volta in silenzio. A quasi 62 anni mi rialzo, mi rimetto in discussione e ricomincio di nuovo. Ho già fatto il biglietto per un paese nuovo e molto lontano, e tra una settimana partirò. I nostri giovani di un tempo immigravano in fatiscenti navi in condizioni estreme. Io, non più molto giovane, prendo un comodo aereo, anzi due, per andare più lontano, dove dovrò affrontare molte difficoltà. Giovanni non è solo e si vuole molto bene, perché ha imparato che quando sei onesto e lavori, l'universo non ti abbandona mai, anzi si coalizza per aiutarti. Come ho fatto io, ascolta il tuo cuore prima dell'impulso estremo, perché la vita è la cosa più preziosa che hai, anche se a volte, per scoprirlo, devi alzarti e ricominciare. Devi volerti bene e quando l'hai scoperto, tutto ti appare nuovo e meraviglioso. Giovanni Attinà. Me la dice una cosa, professor De Aglio, anche se so che non sono i suoi temi, sulla disperazione che sta colpendo migliaia di persone in questo paese? Ma intanto devo dire che è una lettera bellissima. Decine ne riceviamo di bellissime, anzi centinaia. Tra l'altro questo spirito imprenditoriale che poi comunque vuole ripartire è qualcosa che dovremmo mettere nelle antologie, dovremmo diffondere. Detto questo, dobbiamo cercare di capire perché si è arrivati a queste condizioni, e c'è almeno una cosa dove probabilmente si potrebbe alleviare, fare. Mi rendo conto che non è facile, perché poi tutti hanno dei vincoli, le banche hanno i loro vincoli, tutti gli altri. Peraltro un uso più come dire, più capillare e forse più simpatico della Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe, là dove, soprattutto dove ci sono dei debiti non pagati delle amministrazioni pubbliche, no? Questa è la grande ingiustizia. Cioè, c'è gente che andrebbe bene che chiude le imprese perché lo Stato non paga, ma questo non è giusto. Allora mi rendo conto che lo Stato non può farsi fare un'anticipazione generale della Cassa Depositi e Prestiti perché aumenterebbe il debito pubblico, però la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe inventarsi uno strumento per cui chi ha dei crediti con lo Stato ottiene credito a condizioni migliori e più rapidamente dalla cassa stessa. Grazie al professor Mario De Aglio, a Sebastiano Beresoni, le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.